cos'è quest'estate. E sono le 8 e 12 minuti, una buona giornata, ben ritrovati da Laura Bettini, questa nuova puntata di Ma cos'è questa estate? Le notizie sono tante, ovviamente noi abbiamo fatto una selezione, parliamo di vari argomenti, a cominciare da un appello che è stato lanciato la scorsa settimana sulle pagine di Avvenire, per la precisione sabato scorso, soffocati dall'usura. Questo era il titolo di apertura del quotidiano. In particolare Avvenire segnalava la situazione della Puglia, dove tante famiglie e imprenditori, dice, sono stretti nella morsa degli strozzini. Bene, di questo parliamo in questa prima parte del programma di oggi. Lo faremo a partire da una testimonianza di una persona, la chiameremo Riccardo. Aveva Riccardo intenzione di sposarsi qualche anno fa, ci ha raccontato, così invece di continuare con l'apprendistato mal retribuito che stava facendo, ebbe la pensata, diciamo così, di cambiare mestiere, di rilevare un'attività commerciale con i soldi che aveva e con un prestito bancario. Quello che è successo lo sentiamo, almeno un primo frammento, dalla sua voce tra un istante. Vi ricordo che come sempre c'è l'824 0024 per eventuali vostri interventi in diretta, o 349 238 6666 per sms e messaggi WhatsApp. E allora, cosa è successo all'inizio con quello, appunto, con la nuova attività di Riccardo? Sentiamo. Decisi di mettermi in proprio perché un amico mi aveva presentato un'occasione che era quella di rilevare un'attività esistente che sembrava apparentemente una buona opportunità. Quindi chiesi aiuto a parenti e amici che, diciamo, garantirono per me con la banca per un prestito, e così rilevai questa attività. Per 2 anni le cose sono andate piuttosto bene, e poi invece nel 2012, a causa di un raggiro commesso da uno dei miei clienti, mi ritrovai con un'esposizione, con un debito di circa 17.000 euro, e da lì sono cominciati i problemi, perché la banca prese tempo, nel senso che io chiesi a loro fidi o comunque un prestito, però mi fecero acquistare delle azioni della banca con la promessa di darmi questo prestito. In realtà fecero trascorrere 6 mesi che per me furono, cioè, non fecero altro che aumentare la mia esposizione, perché ovviamente aumentò il debito che avevo. Poi alla fine mi rifiutarono il prestito, e a quel punto, in un giorno che definire sfortunato è poco, una combinazione di eventi, entrò un conoscente nella mia attività, mi vide giù di morale, vide la mia attività completamente priva di merce, quindi vuota, mi chiese cosa fosse successo. Io mi confidai, sbagliando ovviamente, con lui, e lui mi disse di avere uno zio che avrebbe potuto aiutarmi economicamente, e quello fu l'inizio della fine. Insomma, un po' la sventurata rispose, come nei Promessi Sposi. Bene, noi ovviamente abbiamo dovuto camuffare la voce di Riccardo, abbiamo la viabilità e tra poco riprendiamo e parliamo proprio di questo argomento. Ed eccoci, torniamo insieme per parlare, per l'appunto, come dicevamo, di usura. Ho parlato sopra la sigla, capita, bisogna prendere le misure con le novità. Allora, Michela Di Trani è in collegamento con noi, giornalista, autrice di Il riscatto fuori dal tunnel dell'usura, l'ultimo volume che ha pubblicato su questo tema, non il primo, e portavoce della Consulta Nazionale Antiusura Papa Giovanni Paolo II Onlus. Buongiorno Michela. Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito. Grazie a lei per essere in collegamento. Allora, noi abbiamo fatto sentire la prima parte, no? Il primo frammento della storia di Riccardo, che poi ascolteremo in altri due passaggi. Questo è il momento in cui, diciamo, lui risponde, no? A una difficoltà, sì, di ben 17.000 euro, quindi non è una cifra enorme, ma per uno che ha appena avviato un'attività commerciale è una cifra importante. La banca non risponde, diciamo, alla sua richiesta, lo temporeggia e poi alla fine gli dice di no, e lui ha il classico amico dell'amico che dice: posso risolvere la situazione. Questa è un po' la traiettoria di tutti, direi. Infatti questo diciamo è un caso classico, perché appunto siamo di fronte ad un'attività commerciale. Poi Riccardo ha parlato della giornata sfortunata, ma così non è, no, non è la giornata sfortunata. E poi appunto ha parlato della banca, dei tempi lunghi delle banche. Allora, Riccardo, appunto, dicevo, ha parlato di giornata sfortunata, la persona che è entrata nel suo negozio ha visto appunto gli scaffali vuoti e gli ha fatto la proposta, ma quella non è stata una giornata casuale. La criminalità organizzata, in genere l'usura, ci sono due tipi di usura, cioè l'usura, insomma, quella comune e quella legata alla criminalità organizzata. La criminalità organizzata è, diciamo, ha un sistema di credito ben organizzato, quindi cioè l'usura comune è quando tu ti rivolgi a un singolo, intendo questo? Sì, è un singolo, praticamente il parente che non fa parte di no, una banda criminale. No, sicuramente ti dà un tasso, magari ti chiede un tasso più alto, ma se appunto non dovessi pagare non ti manda nessuno a casa a romperti le braccia o le gambe, ecco questo. La criminalità organizzata, come dicevo, ha un sistema organizzato, quindi quella persona che è entrata nel suo negozio non si è trovata lì, diciamo, casualmente. Sicuramente lui è stato osservato, loro aspettano il momento giusto per farsi avanti. Allora, mentre in banca bisogna fare lunghe trafile, istruttorie bancarie, dare in garanzia il primo immobile, il secondo e il terzo, l'incontro con il direttore, poi il direttore ti dice: no, guarda, siamo la tua pratica e la stiamo osservando, tu nel frattempo vuoi comprare delle azioni, insomma, che noi ti proponiamo, oppure nel frattempo tu puoi fare questo. Invece no, loro hanno tanti soldi liquidi in contanti che hanno bisogno di piazzare e di mettere nel sistema legale. E quale opportunità migliore se non appunto fare prestiti, che poi, voglio dire, il prestito è soltanto, diciamo, l'inizio, una modalità per entrare nell'attività commerciale, ma il fine ultimo, l'obiettivo è quello di rilevare l'attività commerciale. Infatti, non so se magari lo ascolteremo, Riccardo, cioè, ad un certo punto si trova nelle condizioni, cioè, gli propongono di vendere la sua attività. Ho un notaio amico, vieni da me, a questo punto non riesci a pagare, ci vendi la tua attività commerciale. Insomma, questo è il fine ultimo, ecco. Certo, allora questa è un po' la situazione. Allora io farei ascoltare la seconda parte della testimonianza. Non parla del notaio, ma Michela ce l'ha già anticipato, comunque quello è un passaggio della sua storia. Parla dei debiti che via via aumentano, ma lui non si rende conto di questa situazione. E all'ascoltatore che scrive: è assurdo che si debba camuffare la voce di Riccardo e non quella degli usurai, diciamo. E beh, è così, però c'è tra l'altro un processo in corso, quindi non è il momento, diciamo, di scoprirlo, e non vogliamo neanche farlo, perché in fondo non ha molto significato, ecco, dare un nome preciso, un volto a questa persona. Quello che ci interessa è la sua storia, sentiamo. Di lì a poco, quindi mi prestò la prima somma, che era comunque piccola, io rientrai comunque del primo debito, poi mi prestò una somma più grande e da quel momento io ho pagato 300 euro alla settimana solo di interessi, questo era l'accordo, 300 euro alla settimana solo di interessi, per poi rientrare del capitale non appena ne avessi avuto la possibilità. Ovviamente pagando già 300 euro alla settimana, quindi 1200 euro al mese, io di quel debito non rientrai più e continuai a pagare sempre solo gli interessi per circa un anno e mezzo. Quando ho cominciato a fare i primi ritardi, ovviamente sono cominciate le minacce, e da quel momento io ho smesso di vivere, perché praticamente la mia non è stata più una vita da quella fase in poi, perché ero perennemente preoccupato, ero teso, nervoso, raccontavo bugie, e di lì a poco sono stato veramente sull'orlo del precipizio, ma non in senso lato, ma in senso fisico, nel senso che un giorno avevo deciso di farla finita. Non lo feci per una combinazione di situazioni, ma feci partire un messaggio ai miei familiari in cui raccontai tutto quello che mi stava succedendo, perché l'idea era quella di mandare questo messaggio e poi farla finita. In realtà il messaggio fu inviato, ma io poi non feci più quello che dovevo fare, perché una persona mi fermò. E quindi da lì si è messo in moto da parte della famiglia un aiuto, soprattutto di capire quello che stava succedendo, perché per molti sembrerà strano, ma io fino a quel momento non mi ero nemmeno reso conto di essere finito in un baratro del genere, soprattutto non mi ero reso conto di essere finito nelle mani di usurai. È un meccanismo psicologico paradossale in cui chi ti sta facendo questa cosa qui ti appare anzi come colui che ti sta salvando. Michela Di Trani, che è la portavoce della Consulta Nazionale Anti-Usura. Siamo arrivati a questo punto, poi lui ci dirà come insomma la sua vita poi abbia finalmente preso un corso migliore. Ma ti volevo chiedere, leggi per contrastare questi fenomeni, come sono, a che punto siamo? Direi non buono. Sì, perché la legge è la 108 del 96, quindi una legge insomma che ha superato i suoi 20 anni, siamo praticamente quasi un quarto di secolo, è stata considerata la Consulta Nazionale Anti-Usura già dal primo giorno, già dal 96, quando è stata varata dal Parlamento, ha intrapreso una battaglia anticostituzionale. Ci sono 13 costituzionalisti che sostengono che la norma è incostituzionale, perché si rivolge solo, innanzitutto qual è la finalità di questa legge? Esistono delle risorse dello Stato che sostengono le famiglie indebitate a usura, solo che questi fondi sono rivolti soltanto agli operatori commerciali, imprese, commercianti, artigiani e così via. Le famiglie purtroppo sono escluse, e questo appunto in questo è già diciamo, una discriminazione intollerabile, chiaramente. Sì, che poi soprattutto nelle piccole attività commerciali, e noi sappiamo che comunque il tessuto economico e produttivo italiano è costituito da piccole imprese oppure da aziende familiari, e il patrimonio personale e il patrimonio diciamo aziendale non si distingue, insomma fa parte praticamente dell'unico appunto patrimonio che l'impresa ha, quindi anche in questo, cioè piccoli imprenditori che sono anche, voglio dire, che hanno un'impresa familiare, non possono essere diciamo sostenuti dallo Stato, e questo diciamo è una incostituzionalità. E poi che altro? Anche il fatto che come si alimenta questo fondo? Il fondo non si alimenta in maniera costante annualmente, c'è un meccanismo. Praticamente sono dei ora non voglio entrare nei tecnicismi, comunque il Ministero degli Interni annualmente decide la somma da destinare al fondo anti-usura, ecco questo. Ok, quindi annualmente insomma in base alle disponibilità è così. Alle disponibilità e quindi ovviamente di quest'anno non sappiamo ancora, ma no, quest'anno c'è sicuramente una difficoltà in più, almeno così sembra leggere l'articolo di cui parlavo appunto di Avvenire della settimana scorsa, la difficoltà comincia a essere evidente. Sì, perché più del solito, ecco, perché più del solito, da quando è iniziato diciamo il lockdown, appunto come dicevo prima, la crisi economica del 2008, poi l'introduzione dell'euro, queste praticamente sono situazioni di crisi economica che comunque indebitano le persone e ci sono cioè quindi nel quel paese fondo esiste. Dovrebbe essere quest'anno molto più ingente, ecco, diciamo. Dovrebbe essere incrementato, so e che dovrebbe essere risolta questo conflitto nella legge, questa incostituzionalità nella legge, sì, di modo che anche appunto le famiglie possano beneficiare e usufruire, disoccupati. Insomma lavoratori dipendenti, insomma un lavoratore dipendente che è licenziato non può accedere al fondo, ecco questo per fare un esempio. Allora io farei sentire però, perché abbiamo gli ultimi 3 minuti purtroppo, l'ultimo passaggio della testimonianza di Riccardo, nel quale lui prende una decisione fondamentale, quella di denunciare. Mi sento di dare a chi si trova nella situazione, nella mia stessa situazione, un consiglio, che è quello di parlarne ovviamente con le persone giuste. Le persone giuste sono le fondazioni, le persone giuste sono le forze dell'ordine, questa è l'unica maniera per uscirne, e anche se il percorso in quel momento vi potrà sembrare articolato, complicato, è l'unica maniera per restituirvi dignità, perché altrimenti da soli non ce ne si esce. Allora Michela, lui ha appunto individuato, no? Bisogna assolutamente denunciare, altrimenti non se ne esce. Ha anche quella incontro fondamentale con Don Alberto, che gli dice: fai i conti di quanto tu hai perso. E direi che quello è il fulcro, no? Chi ha questa difficoltà, invece di considerare coloro che gli prestano soldi degli amici, dovrebbe fare i conti di quello che questi amici gli stanno chiedendo. Allora, in genere sono persone, non è un giudizio, ma sicuramente quando diventano vittime di usura diventano persone un po' disordinate dal punto di vista psicologico e quindi per loro è importante risolvere il problema del giorno, perché insomma loro sanno che tutti i giorni devono procurare una determinata somma di denaro. L'usura spesso si trasforma in racket, cioè si perde praticamente il conto, insomma, del debito iniziale, e quindi a vita queste persone bisogna restituire una determinata somma. E quindi loro perdono proprio il controllo, cioè per loro diventano alcuni, dalla psicologia è stata definita l'usura come una dipendenza senza sostanza. Cioè loro tutti i giorni hanno bisogno di procurarsi una determinata somma di denaro e sono disposti a tutto, anche a rubare, a dire bugie, anche perché loro pensano in questa maniera, non parlandone con i propri familiari o con altri, loro pensano di proteggere i propri familiari, ma non è così, perché comunque nel momento in cui loro sottraggono soldi alla propria famiglia per pagare queste persone, comunque cioè, i loro familiari ci sono dentro, quindi non li stanno proteggendo. E allora come se ne esce? Se ne esce denunciando. Esattamente, esattamente. La denuncia, sì, è fondamentale. La consulta nazionale antiusura fa un'attività di formazione verso questa strada. Allora, la denuncia è possibile. In genere loro hanno oltre alla paura della denuncia, paura di ritorsione, loro hanno anche problemi economici, perché appunto non possono sostenere le spese di un avvocato. Cioè, mentre questa gente ha tanti soldi. E quindi qui interviene la consulta. Noi dobbiamo salutarci, perché adesso ovviamente, come è noto, il clock di Radio 24 a quest'ora prevede una pausa. Io voglio ringraziare Michela Di Trani, autrice di Il riscatto, fuori dal tunnel dell'usura, edizioni San Paolo 2018, come abbiamo detto è anche portavoce della consulta nazionale antiusura Papa Giovanni II Onlus, alla quale vi prego fate riferimento se è per voi necessario uscire da queste situazioni. Piccola pausa. Ma cos'è quest'estate? Andiamo a Bologna per un tema, anche questo, diciamo, del momento, ma anche dell'ultimo decennio. Parliamo di consumo di suolo. La situazione dell'Emilia-Romagna è abbastanza nota, è la quinta regione più cementificata d'Italia, insomma, quindi già si è costruito molto e forse si potrebbe comunque ripartire a costruire, il che ovviamente non sarebbe affatto una buona notizia, almeno non lo sarebbe nel momento in cui si andasse a costruire, cementificare, a cambiare un po' la situazione sul territorio, soprattutto nelle aree destinate all'agricoltura. Io vorrei capire un po' cosa succede, perché c'è nella Commissione Ambiente della Regione Emilia-Romagna già stata una decisione che va nella direzione di sospendere questo stop al consumo di suolo che c'era, e oggi se ne dovrebbe parlare anche poi nel Consiglio regionale. Facciamoci chiarire la situazione, perché devo dire, andare a caccia di queste informazioni sul sito della regione è complicatissimo. Sono state un po' nascoste, almeno questa è l'impressione che ne ho avuto io. Ma Marcello Saltarelli, che è stato candidato con il movimento politico paneuropeo Volt alle regionali dell'Emilia Romagna e si occupa di questioni ambientali per Volt Bologna, sicuramente potrà aiutarci a chiarire un po' le cose. Marcello, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Laura e buongiorno a tutti gli ascoltatori, e grazie mille per questa opportunità. Io sono molto contenta di parlare di questo tema, che è un tema che seguo da molti anni, mi è molto caro nelle varie trasmissioni, insomma, che ho condotto. Però ti dico davvero, la situazione, scusa se ti do del tu, non è giusto. No, no, non va bene. Non va bene perché se sei giovane non è che ti devo dare del tu. Secondo me se è obiettiva, cioè, se facciamo pari sì, se tu me lo dai a me va benissimo. Okay. Allora, senti, la questione è complicata, nel senso, in Emilia-Romagna che cosa potrebbe succedere oggi in questa grande raffica di incontri e discussioni che ci sono? Allora, parliamo della proroga della legge della Regione Emilia-Romagna sul consumo di suolo, una legge che è stata introdotta nel 2017, un'ottima legge che però appunto adesso verrebbe prorogata. E prima introdurrei velocemente questa legge per capire di cosa stiamo parlando, poi se me lo permettete vorrei anche spiegare perché per noi di Volt è importante non prorogare. Peraltro, non solo voi, io ho scelto di parlare con voi, ma c'è un discreto movimento a Bologna che contrasta insomma questa possibilità. Assolutamente. E infatti dice appunto non è importante solo per noi, ma in totale per la regione Emilia-Romagna e io direi anche per l'Italia intera, comunque a livello ambientale, ma soprattutto ci tengo a sottolinearlo anche a livello economico. Allora, la legge sulla tutela del suolo è stata approvata appunto nel 2017 ed è una legge estremamente importante sulla carta perché, salvo proroga, entrerebbe in vigore a gennaio 2021 e va a introdurre un limite al consumo di suolo in regione in modo da azzerarlo entro il 2050. Questo limite è determinato dal 3% del totale del territorio attualmente urbanizzato. Parliamo quindi di una riduzione davvero importante rispetto a quelli che erano i piani di urbanizzazione vigenti prima, quindi quelli che prevedevano, o meglio quelli che prevedono fino ad oggi. Perché le previsioni di urbanizzazione di questi piani, che dovrebbero scadere con l'entrata in vigore di questa legge, sono di un consumo di suolo di circa 250 km quadrati, che è un'espansione enorme per la nostra regione, che con la nuova legge sarebbero passate 70. Attenzione che non abbiamo sentito, cosa sarebbe successo con la nuova legge? Con la nuova legge l'espansione previste in 250 km quadrati sarebbe passata a 70. Ok, un bel taglio. Quindi una bella riduzione. Perché però prima ho parlato di legge importante sulla carta? Perché purtroppo già questa legge nasce annacquata. Secondo questa legge infatti non si conteggia come consumo di suolo ogni opera pubblica, ogni opera stradale, gli allargamenti, rampe, eccetera, ma soprattutto non si conta come consumo di suolo la cementificazione per costruzione di impianti produttivi che vengono considerati interesse strategico. E capiamo che nell'interesse strategico può rientrare di tutto. Un po' di tutto, certamente. Esatto. Quindi questa legge già è nata abbondantemente annacquata. Esatto, nasce e viene approvata nel 2017 per entrare in vigore poi solo 3 anni dopo, e oggi non solo non viene rinforzata come prevedeva il nostro programma regionale e quello comunque anche di altri partiti in coalizione, ma addirittura viene rimandata utilizzando i voti di Fratelli d'Italia e della Lega, quindi dell'opposizione, per prorogarla. Quindi tutti d'accordo per prorogarla sembrerebbe? In commissione no. In realtà la maggioranza si è spaccata in Commissione Ambiente perché Verdi è coraggiosa in Commissione e presumibilmente anche in Consiglio oggi hanno votato contrario e voteranno contrario in Consiglio oggi. Cosa diversa è stata in Giunta, in cui invece non c'è stata alcuna opposizione. Quindi almeno sulla carta diciamo che sono alleanze molto variabili, diciamo. Insomma. Esatto. E cosa più importante, vengono rimandate anche le scadenze dei piani di urbanizzazione vigenti, quindi rimarranno tutti i piani di urbanizzazione che prevedono questi 250 km quadrati. Ma questo con un vecchio diciamo obiettivo in mente, che la ripresa passa solo da certi cantieri, insomma, perché l'idea è quello, no? L'idea è di dire dobbiamo rilanciare le imprese e quindi non possiamo bloccare queste cose. Assolutamente, è il tema dell'ambientalismo, perché la pancia piena, quindi adesso ci sono problemi più grandi della cementificazione, l'economia è in pericolo, le imprese chiudono, quindi bisogna ricominciare. Che è verissimo, sono problemi enormi, nessuno li nega, anzi, ma vanno proprio affrontati e soprattutto affrontati in un'ottica di lungo periodo per prevenire le crisi future e contrastarne gli effetti. Quello che è il tema, cioè, della, c'è il tema della rigenerazione, per esempio, no? Quindi cambiamo il nostro tessuto urbano, rifacciamo certe cose oppure compensiamo tutto quello che, no, facciamo. Ci sono varie possibilità anche di lavorare per le imprese. Assolutamente, il tema, cioè quello che è stato il tema della transizione ecologica, dello stop al consumo di suolo, la svolta sostenibile, è un tema sul quale abbiamo intanto ritrovato un'ampissima condivisione in campagna elettorale con tutta la coalizione, e poi sul quale ci siamo spesi ampiamente nel nostro programma regionale per fare capire che ambiente e sviluppo non devono più essere uno contro l'altro, ma devono andare, diciamo, mano nella mano verso uno sviluppo insieme, uno sviluppo che sia sostenibile. Peraltro io ho visto più volte i costruttori, devo dire le loro associazioni nazionali, definirsi pronti a fare anche questi lavori. Non è che dici voglio solo fare la tangenziale di Bologna, posso anche fare altre cose. L'importante è lavorare in un contesto, diciamo, di condivisione, infatti, perché sennò poi ci sono anche tutte le proteste, le cose, certo. Quindi si ferma tutto. Ma infatti, tra l'altro, non è che siamo solo noi di Volt che ci inventiamo, o comunque i partiti ecologisti che si inventano questa cosa della transizione ecologica. Cioè, la Commissione europea in primis sta chiedendo l'avvio di un Green New Deal per l'economia, non un'economia per il Green New Deal. Quindi è la Commissione che chiede di cambiare il paradigma di sviluppo da economia verso ambiente a ambiente per l'economia, perché il cambiamento climatico, se non lo affrontiamo, è un fattore che distruggerà la nostra economia. E David Sassoli, che è il Presidente del Parlamento europeo, è stato chiaro in questo, cioè se non ripartiamo dal pianeta non avremo la capacità di indicare una strada per la crescita. E questa è la direzione necessaria oggi per avere uno sviluppo vero, resiliente, resistente ai cambiamenti del futuro. Senta, ma abbiamo deciso di andare sul tu, qui mi impasticcio. Allora, il classico messaggio è non consumiamo territorio, stiamo tutti a casa, facciamo il lockdown e poi... Ma non è questo il punto, secondo me, non è questione di non costruire più e non consumare territorio, o meglio, del non consumare siamo d'accordo, che come altri notano ci sono milioni di vani liberi per quanto riguarda le case, ci sono capannoni già costruiti e abbandonati per le imprese, per i centri commerciali, non è sempre necessario far tutto ex novo, ecco, fare sempre tutto nuovo, non è che si può riadattare, si può riutilizzare quello che abbiamo, è lì il punto. Assolutamente, è proprio l'avvio di un processo di rigenerazione urbana che noi abbiamo sempre sostenuto e sul quale ci siamo sempre battuti, lo stiamo facendo a Bologna, lo stiamo facendo in Toscana, dove hanno le elezioni regionali con la lista di Svolta, e questo processo di rigenerazione urbana, tra l'altro, oggi può essere in sinergia con gli incentivi statali, per esempio per le ristrutturazioni del 110%, e potremmo però anche ampliare e potenziare la rete di trasporto su ferro e incentivare anche di aziende che applicano criteri di sostenibilità sociale ed ambientale nel loro piano di sviluppo industriale. È stato visto e dimostrato come le aziende che applicano questi criteri crescono di più e crescono meglio. Non è un fattore di dovete tutelare l'ambiente perché sennò stiamo male tutti e basta, è anche dovete tutelare l'ambiente, dovete tutelare i vostri lavoratori, quindi sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale, perché stiamo meglio tutti, voi compresi. E questo, certo, è importante, ma le aziende lo stanno già capendo. Aziende l'hanno capito, secondo me, bisogna mettere insieme, non dico tutte, perché non è che voglio difendere la spada tratta il mondo dell'impresa, ma molte sono pronte e fanno delle cose. Allora, qui quando si vota abbiamo un'idea, Marcello, stamattina, oggi pomeriggio, così vogliamo un po' seguire come vanno le cose in consiglio. Allora, mi sembra che si voti oggi pomeriggio, c'è una manifestazione sotto la regione alle ore 11, in cui noi ci saremo, e ci saremo insieme a Fridays for Future, Extinction Rebellion e altre sigle. E questo per chi volesse in zona partecipare. Esatto. Tra l'altro, chiaramente sarà un sit-in in cui rispetteremo tutte le regole di assembramento. Per carità, state attenti. Certo. Però io vorrei concludere dicendo l'ultimo che noi minuto. Ok, giusto un minuto, riaprire il dialogo su questo tema, perché secondo noi una legge così importante, fondamentale, non può essere prorogata a fine luglio facendo sponda con l'opposizione senza dialogo con le forze che compongono la maggioranza, quando poi quelle forze si sono tanto spese per, in campagna elettorale, per la tutela del territorio. E quindi insomma, noi di Volt siamo pronti a dialogare, a proporre mediazioni tra una completa proroga e l'entrata in vigore della legge a gennaio, ci sono tante vie di mezzo, e riteniamo interesse non solo dei nostri 10.000 votanti, ma di tutta la regione venire ascoltati. Sì, vedi, adesso è venuto uno spunto interessante che magari riprendiamo, perché un ascoltatore dice che da molto tempo vorrebbe acquistare un capannone pignorato, in disuso, ma niente, non ci riesce, gli interessi, dice, del curatore sono ben tutelati. Ora, questa è una questione sicuramente da approfondire, da qui però a dire che siano tutti ben tutelati questi capannoni abbandonati, credo di no. Allora, Marcello Saltarelli, adesso lo dico tutto intero, grazie davvero, buon lavoro con Volt Bologna e ci risentiamo nei prossimi giorni, fateci sapere come vanno le cose, insomma. His courtship has just begun. Said young man, have you hold some more? La musica è un po' far west, ma in realtà noi adesso andiamo a parlare dell'orso in Trentino, l'orso M49 che è fuggito di nuovo, questa volta invece di scavalcare la recinzione esterna come aveva fatto in aprile del 2019, M49 è riuscito a superare la barriera elettrica, poi ha divelto una rete elettrosaldata, insomma poi ha piegato l'inferriata, insomma è un artista. Onestamente, è un artista della fuga. Io non ho una precisa posizione, non ho una posizione, dici, ambientalista tout court, non si toccano gli animali, e non ho neanche però il chiodo fisso di far fuori M49, diciamolo così, proprio piatto piatto. Vorrei capire un po' invece da una persona esperta, un veterinario, tra l'altro un medico esperto per l'appunto di M49, qual è un po' la situazione e come trattare con questo animale, quali rischi, quali necessità. La persona in questione è Alessandro De Guelmi, veterinario della provincia autonoma di Trento, esperto di orsi per un progetto europeo anche di ripopolamento che si chiama Life Ursus, ma che ha catturato nello specifico due volte M49, quindi chi più di lui conosce M49. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i vostri radioascoltatori. Popola un po' i suoi sogni o incubi notturni M49, cosa succede? No, quando sogno di orsi sono sempre dei sogni meravigliosi. Ma io sono animali che ovviamente noi di città non conosciamo, insomma, penso sia molto dovuto a quello anche, no? La paura che c'è in generale, all'idea dell'orso, per cui uno pensa al grizzly, l'orso è un animale del film, ecco. L'orso è un animale con una forza impressionante, ma con una grandissima intelligenza e pochissimo aggressivo. È importante, non bisogna avere paura dell'orso, ma rispettarlo per quale sono il suo comportamento, il suo habitat, le sue abitudini di vita. E questo secondo lei non viene sufficientemente fatto? Ma probabilmente ogni tanto pecchiamo molto in informazione, direi che siamo bravi a gestire le emergenze, però il quotidiano, l'informazione, la conoscenza, tra il resto per informare bene le persone bisogna avere una conoscenza approfondita e molto spesso si investe poco in conoscenza, in ricerca. Di questi orsi dovremmo sapere quasi tutto, il loro comportamento, le loro abitudini, come si spostano, quando si spostano. Ora, questa parte credo forse è più da voi, diciamo. Di sicuro come comportarsi in certe zone d'Italia dove gli orsi ci sono, ma anche altri animali selvatici, perché poi alla fine noi stiamo parlando di orsi, ma leggevo nell'articolo che aveva scritto lei, insomma, che riguarda M49, no? Dove lei racconta veniva lasciato sempre questo secchio pieno di latte vicino a una casa e l'orso lentamente si è abituato agli umani, andare a mangiare e a bere questo latte, poi il giorno che non ce l'ha trovato è entrato dentro quel capannone per cercare il latte che gli piaceva tanto. Quindi questo è l'addestramento che dobbiamo avere noi, non lasciare lasciare il secchio con latte per l'orso tutte le sere. Si dice che un orso che si alimenta in modo artificiale dall'uomo è un orso morto. Questo è un detto a livello mondiale. E la cosa triste è vedere che un animale meraviglioso come M49, le ricordo che quando l'ho catturato... Ma lei lo chiama M49 tra sé e sé, veramente? Perché ritengo sia veramente aberrante, orribile, dare un nome a un animale. Vuol dire umanizzarlo e non vuol dire rispettarlo per le sue caratteristiche di selvaticità. Okay. Perciò M49 è la sigla che viene data per poterlo riconoscere, non è un nome. La cosa triste è vedere che un animale così bello, così meraviglioso, così forte, io l'ho accarezzato, l'ho curato, l'ho monitorato, ho ascoltato il battito, il suo respiro, è triste vedere che farà questa orribile fine che può essere la captivazione, che è una cosa veramente indegna per un orso nato in libertà, o il suo abbattimento, per comportamenti sbagliati da parte dell'uomo. Ecco, noi dobbiamo cercare di evitare questi comportamenti errati, come quello di alimentare appunto gli animali. Sì, perché da una parte li trattiamo un po' come se fosse il peluche, poi quando però si avvicina troppo non è più il peluche. Assolutamente. E allora ci fa paura e va eliminato. Assolutamente, l'orso è un animale da rispettare per le sue caratteristiche comportamentali. Non bisogna aver paura, bisogna solamente rispettarlo, conoscerlo. Chiaramente è un animale pericoloso l'orso, perciò va gestito, va tutelato. Nei casi estremi si può arrivare anche all'abbattimento dell'animale, che ritengo sia molto meno crudele che rinchiuderlo all'ergastolo, in una gabbia o in un recinto, per quanto grande sia, per tutto il resto della sua vita. Oltretutto non ha nessun senso, perché noi potremmo avere tutti gli anni degli animali da dover catturare. E allora in questo caso, visto che l'orso vive in cattività fino a 40-50 anni, dobbiamo avere decine e decine di recinti dove recludere questi orsi, quando culturalmente e giustamente non vogliamo gli animali negli zoo, non vogliamo gli animali nei circhi, che per il resto sono animali nati in cattività. Questo che è l'emblema della selvaticità penso che non meriti assolutamente di essere rinchiuso. Infatti lei nel parlare di un altro orso che ha riempito le pagine di cronaca recentemente, disse di JJ4, meglio l'onore della morte nel bosco. Ma perché comunque tra la cattività... no? Ma tra i due animali c'è una differenza sostanziale. Sì. JJ4 per 14 anni si è comportato in modo meraviglioso, elusiva, non ha mai creato nessun tipo di problema. È successo una volta che ha avuto questo incontro con le persone, che è finito così. Invece M49 ha continuato ripetutamente le sue scorribande, uccidendo, non predando animali, ma uccidendolo, per tante volte non li mangiava nemmeno, li uccideva e basta, e dopo il fatto per circa 40 volte ha cercato di entrare nelle abitazioni e tantissime volte ci è riuscito, veramente buttando giù finestre, buttando giù porte. Questa è una cosa che non può essere accettata per una convivenza tranquilla uomo-orso sulle nostre montagne. Ricordo che il Trentino è la zona del mondo con la più alta densità abitativa, nella quale vive una popolazione stabile di circa 100 orsi. È chiaro che questo è la convivenza, tante volte non è facile, però dobbiamo vedere l'orso non come un problema per l'uomo, ma come veramente un valore aggiunto in più per il nostro ambiente, perché se ci vive l'orso vuol dire che abbiamo ancora un ambiente bello, incontaminato, adatto all'uomo e adatto anche agli animali. Senta, ho due questioni da porle. Allora, quella classica che scrivono gli ascoltatori: ma cosa bisogna fare se si incontra un orso? Eviterei il selfie che abbiamo visto fare recentemente. E vabbè, questa poi mi risponde magari prima di salutarci cosa bisogna fare. E poi un altro dice: ma se erano stati debellati, dice proprio così, il termine non è quello corretto, dai nostri bisnonni un motivo c'era, reintrodurle è stata una sciocchezza. Ma non erano stati debellati, come dice, cioè era una questione un po' diversa. Allora, è chiaro che nei secoli precedenti la nostra vita si basava su quel po' di agricoltura, ogni famiglia aveva la sua capra, la sua pecora, la vacca, il maiale, e se l'orso uccidevano di queste era veramente la fame. Io credo che la nostra società possa permettersi in questo momento di pagare i pochi danni che vengono fatti all'orso. Ricordo che in un anno i danni dell'orso al patrimonio zootecnico si aggirano sui 30.000 euro, in provincia di 30 all'anno circa, perciò sono cifre veramente irrisorie che sono il bilancio provinciale e al valore aggiunto che può avere l'orso per un territorio. Direi che il progetto Rientro, innanzitutto in provincia di Trento l'orso non si è mai estinto, abbiamo sempre avuto una presenza di orsi, ultimamente negli anni 90 ce n'erano pochi, erano solo maschi, perciò non potevano riprodursi. È stata fatta questa introduzione con l'Life Ursus di questi 10 orsi della Slovenia, ha dato risultati ottimi, adesso siamo circa un centinaio di esemplari. Penso che è stato un progetto di reintroduzione, forse uno dei più importanti a livello mondiale. Senta, le voglio chiedere una cosa però, perché a me questa cosa mi dà un fastidio, questi messaggi così come se sapessero tutto di animali e di boschi. Se togliamo l'orso, cosa succede in un bosco? Cioè, l'orso dà un equilibrio, no? Immagino, all'ambiente. Se no, non è che ci piace a livello decorativo l'orso, non è che stiamo andando nei boschi a vedere Yogi e Bubu. Allora, l'orso... L'orso c'era sui nostri monti prima che arrivasse l'uomo, perciò questa è una grande forma di rispetto per il nostro ambiente. Fondamentalmente se mancasse l'orso forse non cambia granché, però cambia il fascino della montagna, cambia il fascino del bosco. Io credo che l'orso ci possa aiutare a capire che il nostro mondo non è antropocentrico, ma dobbiamo vivere, l'uomo deve vivere in simbiosi, in equilibrio con il resto dell'ambiente. E l'orso è l'emblema di questo. Dobbiamo entrare in un bosco non da padroni, ma sentirci ospiti e sapere che la natura è più forte di noi. Abbiamo visto che la voglia di selvaticità dell'orso è stata più forte della tecnologia, del dolore, della scarica elettrica, è riuscito a divellere delle sbarre di ferro pur di avere la libertà. Ecco, io credo che questo è l'insegnamento che l'orso ci dovrebbe dare. Rispettiamo la natura, rispettando l'orso che è una specie ombrello, ci aiuta a rispettare anche tanti altri animali che sono nei nostri boschi, nelle nostre montagne e a rispettare l'ambiente stesso. Ok, è un atteggiamento, adesso abbiamo gli ultimi 30 secondi, quindi questa cosa di dire l'orso non lo voglia è più, è un po' come dire, mi dà fastidio, cioè, non accettare, ecco, che l'ambiente esterno è fatto così, che la natura è fatta così, non è casa nostra, ecco, che ce la gestiamo come vogliamo. Esatto, non possiamo trasformare la natura a nostra misura, non possiamo togliere alla natura tutto ciò che gli dà fastidio, andremo a sterilizzarla e andremo a distruggere la vita della natura e la nostra vita stessa. Perciò dobbiamo accettare la presenza dell'orso con i rischi che ci sono. Ecco, e magari ricordarci... Sì. Attraverso la conoscenza possiamo ridurre il rischio che ci possa fare di nuocerci. Certo. Ricordo terrestre che sia l'unico stato al mondo dove non sono... consentite l'uso delle bombolette anti-orso, lo spray e dei peroncini, dove consente tutto il mondo. Alessandro De Guelmi, veterinario della provincia autonoma di Trento, come abbiamo sentito, grande esperto di orsi. Io la ringrazio molto per questa chiacchierata. Abbiamo GR24, torniamo subito dopo. Ma cos'è quest'estate? You're thinking we won't go down. I could feel us sinking, then I came around. Alle 9:08, eccoci tornati in studio, ancora una buona giornata da Laura Bettini per questa puntata di Ma cos'è questa estate? Ma cos'è quest'estate senza fiere, potremmo dire? Di solito l'estate c'è una piccola pausa, ma su fine agosto si riparte, ci sono tante iniziative in giro, ci sono fiere spettacolari nell'autunno poi, e però per ora, come sappiamo, è tutto fermo. Ovviamente l'emergenza sanitaria ha bloccato tutto quanto. Qualcosa si è svolto online, qualcosa si programma a metà tra l'online e la persona, diciamo così, e insomma. Però per una ripresa del Made in Italy ha messo recentemente anche il ministro Di Maio, l'impegno va messo sulle fiere, sono il principale strumento per l'internazionalizzazione delle imprese, ha detto, e stiamo lavorando per aiutare su vari fronti dal punto di vista economico, per dargli una data precisa su cui ripartire, e serve anche, insomma, che nel prossimo DPCM del 31 luglio si dica si parte, così ha detto il ministro Di Maio, dice dicendo insomma che settembre potrebbe essere il momento. Allora, noi di fiere, di grandi fiere, non so, faccio qualche nome, tipo quelle Vinitaly, ecco, per dire, oppure quelle che si Ecomondo a Rimini, pensatene una, quella che volete, di fiere vogliamo parlare con Maurizio Danese, che è il nuovo presidente di AEFI, Associazione Esposizioni e Fiere Italiane. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ed altri ospiti che tra poco ci raggiungeranno. Allora, l'obiettivo settembre immagino che vi faccia piacere, però qualche dettaglio in più serve, no? Mi pare di capire che insomma non basta dare una data, ma ci sono molte altre questioni da affrontare, soprattutto perché l'internazionalizzazione delle imprese italiane prevede che dei buyer internazionali vengano in Italia. Sì, diciamo che prima di tutto è necessario fare chiarezza a livello Stato italiano, di fatto sulla chiarezza sulla data di apertura delle fiere, perché noi c'è stata un po' di confusione perché ogni regione poi ha dato le proprie date, quindi però a livello nazionale e internazionale bisognerebbe comunicare una data comune, quindi noi chiediamo al governo che si esprima da questo punto di vista, cercando appunto di avere una linea unica per tutte le fiere nazionali. Non è nascondo che sarebbe necessario anche un intervento non solo nazionale ma anche europeo e mondiale per dare un po' delle direttive e di comunicazione un po' chiara, visto tutti i problemi che purtroppo continuano ad esserci con il Covid. Pensiamo un po' alla Spagna che stava un po' richiudendo qualche area, insomma alla Francia che c'è qualche altro rischio, quindi i Balcani eccetera, quindi magari sarebbe necessario forse un coordinamento anche un po' più importante, però bisogna iniziare dal nostro governo, che deve dare una data chiara in modo che riusciamo poi da questo punto di vista comunicare tutti assieme la data effettiva di riapertura delle fiere, anche perché un espositore organizza le manifestazioni di fiere in tempi, insomma non vengono decise le fiere dalla sera alla mattina, vengono decise con qualche anno o mese di anticipo sicuramente, quindi il fatto di chiedere questa data è una data, è una cosa per noi molto importante. Certo, e poi c'è tutta una filiera da muovere, cioè l'organizzatore l'organizza, dopodiché bisogna che tutti si muovano, che tutti gli eventi collaterali insomma in qualche maniera vengano ripensati. Non è assolutamente una questione così che uno può partire e fare qualcosa, soprattutto appunto quando poi si rivolge anche ad altri paesi, ecco, per cui magari si può contare un po' di più su chi deve presentare prodotti in Italia a un pubblico italiano con una filiera italiana e tutto, quindi in un paese forse un po' più facile, quando si deve organizzare qualcosa di anche internazionale diventa un bel po' più complicato. Fino adesso sì, prego. Prego. No, vi dicevo, fino adesso come diciamo così, tra l'altro voi avete anche tutta, cioè ogni fiera ha tutta una sua struttura da mantenere comunque, cioè ci sono persone che ci lavorano, e quindi fino adesso come è andata, come vi siete barcamenati, per quanto possiamo stare senza lavorare, diciamo così? Allora, diciamo che l'impatto Covid sulle fiere è un impatto che è disastroso. Pensiamo che le previsioni di chiusura di fatturato del sistema italiano prevede, da un fatturato di 1 miliardo, di perdere ben 800 milioni, quindi il nostro sistema feristico sarà veramente messo a dura prova. E l'indotto per ogni euro speso in fatturato dalle fiere, ce n'è un altro, ce ne sono altri due del nostro indotto diretto, quindi allestitori, interpreti piuttosto che trasporti, marketing, eccetera. E lì su un fatturato di 2 miliardi se ne prevede una perdita di 2 miliardi e 4, e poi se pensiamo all'indotto che le nostre fiere danno sulle città, sul nostro territorio, che è reputato da 1 a 10, quindi 1 miliardo di euro del sistema fieristico viene tramutato in 10 miliardi di indotto, quindi pensiamo che perdita enorme che in questo momento abbiamo nel nostro territorio. Come riflesso sulla comunicazione decisamente molto importante. Noi siamo stati molto soddisfatti ieri appunto dell'intervento del ministro Di Maio, perché ha chiarito intanto il ruolo importante di supporto del business che le fiere hanno per la nostra impresa, per la nostra economia nazionale, e insomma ha anche chiarito che vuole impegnarsi dal punto di vista di creare un sistema per ristorare le perdite delle fiere. fiere che in questo momento stanno da sole sostenendo le forti perdite che in questo momento ci sono. Certo, ma che comunque non possono continuare a farlo. Io ho altri due ospiti da presentarvi, che sono Alessandro Malavolti, che è il presidente di Feder Una Coma, che vorrebbe dire Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura. Buongiorno. Buongiorno. Ed è in collegamento anche Paolo Castelletti, che è il segretario generale Unione Italiana Vini. Buongiorno anche buongiorno. A lei. Eccoci. Buongiorno, buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Sono due settori che ovviamente sono tipicamente italiani e che sono votati anche all'internazionalizzazione. Quindi innanzitutto vi chiederei intanto com'è il momento e che cosa sarebbe necessario per voi, no? Sempre ovviamente in relazione al mondo fiere, fare e immaginare per il futuro, per una ripartenza che insomma non è, io non ho idea, ditemelo voi. Allora, Malavolti, cominciamo con appunto le macchine agricole. Le macchine agricole stiamo vivendo in questo momento un momento discreto, nel senso che dopo il lockdown forzato delle nostre attività nei mesi di marzo e di aprile, da maggio siamo riusciti a ripartire con la produzione, per cui abbiamo ricominciato a esportare, noi esportiamo circa il 70% del nostro fatturato come comparto, e questo ci ha permesso di prendere un po' di ossigeno dopo due mesi veramente di asfissia, un po' quello che diceva Maurizio prima, Daniele, sul settore fiere non l'abbiamo vissuto in maniera molto più limitata nel nostro settore. Per noi le fiere diventano fondamentali, nel senso che è il luogo di incontro della soprattutto piccola e media azienda verso l'interlocutore sia italiano che all'estero. In questo momento noi abbiamo ragionato a livello di comparto di cercare di muoversi verso il digitale. Infatti questo volevo chiederle, perché insomma voi avete qualcosa che forse si può far vedere anche no? In maniera digitale, da lontano. Sì, non, certo, non è così provare semplice. È un'altra cosa. È meno complicato del mio collega dei vini. Certo, al vino o l'assaggi o l'assaggi, non è facilissimo far diversamente. Puoi anche spiegarla attraverso alcuni filmati, alcune fotografie, alcuni schemi tecnici. Noi abbiamo la fiera di settore, che è una delle più importanti a livello mondiale, che si chiama EMA di Bologna, una delle più grosse fiere business to business in Italia, secondo e dopo il Salone di Milano, che è una cosa come 320.000 visitatori. L'avevamo a novembre, abbiamo deciso di spostarla a febbraio per evidenti motivi e per la poca chiarezza che c'è in questo momento a livello europeo, come diceva Danese prima. Ci siamo inventati nelle stesse date una fiera digitale, nel senso che abbiamo provato a traslare, grazie anche al contributo del MAECI e dell'ICE, questa l'idea di fiera nel mondo virtuale, per cui con degli incontri, strutturata con degli incontri, cioè non solo visualizzare la nostra macchina, quello lo può fare nel suo sito internet, ma strutturare una piattaforma per incontrare i nostri interlocutori, per cui con tutto quello che caratterizza una fiera, una campagna stampa, una preparazione, degli inviti, tutta una serie di incontri business to business attraverso l'ambasciata italiana e attraverso gli uffici dell'ICE in tutto il mondo, per cercare di attirare soprattutto la parte che più probabilmente mancherà nei prossimi mesi in Italia, cioè gli stranieri. Gli stranieri. Ah, ok, no, si è sentito male. Quindi per attirare, sì, certo, e da un punto di vista così di questo esperimento, com'è andata? Beh, allora, la fiera ci sarà e che cosa è mancato rispetto al contatto diretto anche? Perché poi il contatto diretto è fondamentale. Mm. Diciamo che noi utilizziamo questo evento come evento di lancio per la fiera reale, carne d'ossa, che sarà a febbraio. Noi stiamo preparando tutta una serie di eventi anche di preparazione, la selezione dei premi per le novità tecniche piuttosto che il tractor of the year, per cercare di attirare l'attenzione del settore, sia italiano, ma le dicevo come prima, soprattutto straniero, perché comunque le limitazioni in molti paesi che per noi sono importantissimi a livello di esportazione, soprattutto negli Stati Uniti, la Russia, ma anche tutto il Sud America, ci sono e probabilmente ci saranno anche nei prossimi mesi. Allora, a questo punto vorrei chiedere a Paolo Castelletti, che è il segretario generale dell'Unione Italiana Vini, che ci ha ascoltato fino adesso, se lui scommetterebbe su una fiera organizzata a febbraio, nel senso che non sappiamo se a febbraio saremo dentro o fuori un'emergenza, quindi c'è anche quel rischio lì. Ma allora, scommettere è sempre abbastanza difficile, diciamo che ce n'è l'assoluta necessità, anche perché in questo momento oggettivamente il comparto è molto più in sofferenza di quello ad esempio rappresentato dal dottor Maravolti. Oggi il commercio internazionale del vino sta perdendo oltre il 4% e c'è una proiezione a fine anno di una perdita di 8 milioni di ettolitri, ripeto, a livello internazionale, che è un dato veramente molto, molto pesante, e un ritorno a una normalità, diciamo, post-Covid solo a fine 2021, ma sarà una normalità completamente diversa. Cioè, dove oggi siamo presenti non è detto che i posti ci vengano di nuovo riassegnati, quindi ma vanno, quindi vuol dire che le cantine sono piene di vino in questo momento? Allora, nel mentre le aziende medio grosse che hanno una un portafoglio giro, clienti diciamo abbastanza suddiviso fra l'off trade e l'on trade, quindi fra la GDO e il canale tradizionale, se la stanno ancora cavicchiando. Chi è fortemente spostato sul canale Horeca, quindi enoteche, ristoranti, certo, eccetera, e la vendita diretta, sono fortemente penalizzati, e queste tipologie di aziende sono soprattutto le aziende che lavorano a maggior valore aggiunto, quindi vini di qualità, e sappiamo che la ristorazione non è stata bloccata solo in Italia, ma è stata bloccata in tutto il mondo, ma soprattutto la riapertura della ristorazione di questo canale sta venendo con il contagocce. Quindi diciamo che quello che abbiamo un po' guadagnato sull'off trade, quindi sulla grande distribuzione organizzata, non è stato sufficiente a recuperare le perdite della vendita tradizionale. Quindi il panorama è abbastanza negativo per il settore vino. Quindi auspichiamo già da novembre una wine to wine che dia un minimo di ossigeno, e poi speriamo ovviamente nelle fiere più primaverili. Cosa sarebbe? Ah, lo deve chiedere al presidente danese, è sostanzialmente un'anteprima di Vinitaly, che sarà organizzato, speriamo, pandemia permettendo, già a novembre a Verona, ed è un'anteprima. Ma allora danese, ci dica un po' come pensate di organizzarlo, per l'appunto, essendo un rientro, si torna in pista, ma come? Vabbè, allora, per chiudere un po' il ragionamento di prima, io credo che bisogna un po' cominciare a comunicare che in Italia in questo momento non si corrono rischi particolari, se non altro nelle fiere non si corrono rischi più che in altri settori, e credo che questo sia un tema che dobbiamo poi sviluppare anche per le nostre fiere nazionali, non solamente per quelle internazionali, perché le fiere nazionali dove c'è bisogno di chiarire anche da questo punto di vista che la sicurezza sanitaria nelle fiere in questo momento è garantita. Wine to wine, in questo momento non parliamo, parliamo di Fiera Verona per un secondo. Noi nel mondo del vino, dove facciamo parecchie cose oltre che in Italia anche all'estero, ad esempio in questo momento proprio oggi a Chengdu noi stiamo tenendo una fiera digitale del vino, quindi abbiamo di fatto trasformato in una fiera tradizionale, una fiera digitale, che era programmata a marzo ed è risultata proprio adesso. Abbiamo poi altre manifestazioni che faremo abbinando sia il digitale che la parte fisica. Wine to Wine è stata creata per creare un ponte fra l'anno 2020-2021 nel mondo del vino, quindi un evento importante a novembre a Verona, dove saranno coinvolte circa un migliaio di aziende nel settore vinicolo, in maniera molto più smart, ma proprio per tenere un collegamento col mondo del vino, che in questo momento in tutto il mondo, Germania, Italia, tutte le fiere del vino sono state annullate, quindi era necessario che noi, che siamo insomma la parte attiva della promozione del mondo del vino nel mondo, fossimo in grado di dare un momento di incontro per le nostre aziende, che in questo momento, come diceva prima il dottor Castelletti, hanno seri problemi di vendita, specialmente nel canale Horeca e anche nel canale italiano, quindi ci siamo andati a fare sia per il mercato italiano, ma anche per organizzare incontri sia digitali che fisici con buyer stranieri durante questo evento. Certo, certo. Tornerei un attimo da Alessandro Maravolti, e quindi per parlare di macchine agricole. Ho visto qualche dato, non so quanto è aggiornato, comunque è direi recentissimo: il comparto delle macchine agricole in Italia vale circa 7,9 miliardi di euro, poi si sale fino a 11,4 includendo la componentistica, quindi sono soldi veri, diciamo. Quanto costa partecipare a una fiera e quanto poi si è perso nel non andare in una fiera? Partecipare a una fiera costa in termini di visiva. E perché stiamo parlando anche di bestioni da muovere, anche se parliamo anche solo dell'esposizione. Sì. A noi costano, guardi, il costo dell'area espositiva è 100, il costo di una fiera è 500. Il rapporto è sempre 1 a 5, perché per noi, come diceva lei, il costo del trasporto e della movimentazione di queste macchine è abbastanza impegnativo. Pesa tantissimo soprattutto nell'export, nel senso che la macchina agricola, seppur si può vedere anche attraverso un filmato o meno, l'agricoltore o comunque l'utilizzatore, il trader, vuole vederla di persona. Anche perché in Italia questi 15 miliardi di macchine agricole le facciamo su macchine estremamente specializzate. Ma che affari porta però a fare, no? Perché uno fa un grande sforzo economico, un grande sforzo organizzativo, che benefici dà? Ha un ritorno molto alto, molto alto. Perché è un settore in cui esiste una grossissima frammentazione di produzione, di prodotti. E nella nostra fiera abbiamo 2000 espositori, giusto per dirle, per cui quasi 2000 tipi diversi di macchine. Per cui l'agricoltore vuole vedere e non si accontenta di vederlo su un sito, una macchina. Noi abbiamo necessità di farla vedere e farla, molto spesso anche dimostrare dal vivo l'attività. Buona parte degli ordini delle piccole e medie aziende avvengono attraverso i canali delle fiere. O subito dopo la fiera, cioè la fiera inizia la trattativa, poi la puoi concludere anche dopo. Per noi è fondamentale la fiera in Italia, è fondamentale anche la fiera all'estero. In questo momento sono tutte bloccate. Stanno parlando di riaprire in Germania dal 1° di ottobre, ci sono ancora alcune fiere confermate del nostro settore in Russia a fine ottobre, in Cina e in Corea del Sud, che per il momento sembrano le uniche disponibili, diciamo. Le uniche disponibili, sì. Tutte le altre fiere dal Sud America sono state tutte cancellate. Senta invece, Castelletti, per il vino la mia curiosità è relativa a cosa stanno facendo i famosi cugini d'Oltralpe, che sono però i nostri competitor più assoluti, quelli francesi. Cioè, come si stanno muovendo di là? Ma sostanzialmente stanno vivendo la nostra stessa crisi. Sia dalle aree più conosciute, Bordeaux, Borgogna, piuttosto che Champagne. Champagne ha avuto un tracollo incredibile, anche perché tutti i vini mossi sono molto legati chiaramente all'aperitivo, al fuori casa, ed essendo stato completamente bloccato il fuori casa, è evidente che hanno patito il danno maggiore. Quindi oggi non possiamo fare una classifica di chi sta meglio e chi sta peggio. Anche per loro il sistema fieristico è completamente bloccato. Teniamo conto che loro erano molto spostati sui mercati asiatici, che sono quelli che hanno perso il maggior volume e in valore dal punto di vista delle importazioni. Cioè, Cina credo siamo a meno 40, noi per fortuna abbiamo in questo caso abbiamo un'esposizione sulla Cina che è molto molto bassa, quindi quella perdita va a incidere molto molto meno, ma per i francesi che hanno una forte presenza sul continente asiatico, chiaramente il danno è altrettanto più rimarcato. Insomma, condivido infine con Danese che dobbiamo iniziare, insomma, allora, che il sistema fieristico può tranquillamente garantire norme di sicurezza tali da poter, secondo me, riaprire come hanno riaperto tantissimi altri tipi di attività, ivi comprese quelle turistiche, no? Quindi secondo me è importante scrivercele queste norme. sì, ma credo che le fiere, adesso faccio complimenti a Danese per il suo nuovo incarico, ma credo che abbiano già redatto dei protocolli molto molto importanti e stringenti. Perché è vero che il digitale e il virtuale sono importanti, ma di fatto sono ancora in questo sistema complementari, non possono essere completamente sostitutivi della fiera fisica. Quindi l'augurio è veramente che si torni a un confronto vero. Sì, io credo che questo periodo ci abbia insegnato che certi lavori si possono fare online, certe cose si possono fare in smart working, ce ne sono altre che invece no, vanno fatte di persona, vanno perché c'è relazione, perché c'è conoscenza, c'è mille cose. Allora, Maurizio Danese, ci faccio un esempio per chiudere di una pratica, una buona pratica. Io ho in mente, ieri mi ha parlato di Berlino, che cosa si potrebbe fare proprio velocissimo? Ma io vorrei agganciarmi a quello che ha detto il dottor Castelletti e i nostri cugini d'Oltralpe, tanto per fare un esempio, la Camera di Commercio di Parigi sta investendo nel loro land, nella loro struttura fieristica, ben 500 milioni di euro. e lo stesso stanno facendo i nostri competitor tedeschi. Noi quello che vediamo è che il sistema fieristico, il governo deve realmente dimostrare con i fatti che siccome spesso che parliamo del sistema fieristico, ecco, diciamo così, come sistema strategico per la nostra economia, come ruolo di supporto, come strumento propulsivo, cioè continuiamo, e poi è il sistema fieristico con il quale il 50% delle imprese italiane lo stanno utilizzando per io la devo assolutamente salutare, mi spiace perché ci tagliano la linea, sento la musica che sale. Io la ringrazio davvero tantissimo, Maurizio Danese, il presidente dell'Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, ringrazio Danilo Di Trani, Miriam Lucchetti, Peter Bescapè, ci ritroviamo domani precisi alle 8.